Senta, cuffetta, cosa facete? Chi è? Chi è? Graziano! Marino! Ebbè! E a Cissi! Io ci sono, tu a Cissi! Mi sto facendo la barba, ti ho sentito dal bagno! Sono piccolo piccolo io! Cosa? Fatti la barba, vai, adesso mi ascolto, vai, dopo entri! No, me l'ho fatta, ho finito adesso! Ma c'hai una voce strana che c'hai, bravo così! Un po' la colacciutta, giù. Serviti una sambuca fresca. Una sambuca, no, un GB. G8. E allora, non vuoi manco una grappa, non vuoi? Pesci non vengono, bobo. Io sono in ascolto qua, sono sceso adesso, ma non c'è nessuno. Tutti a zonzo sono a spendere i soldi. Piada Eddie. Beh, sono tutti in giro solo. E allora, chi ha ne di là in più e non sa lì, cosa fa? Le friggi in busciacca. A posto d'osa, sai oggi San Calvino? E oggi c'è San Calvino, ma è stata sempre la matta e cosa, ma... Già il mattino mi sono andato. Insieme a voi c'era andato, ma ci ho fatto una camminata. Sono arrivato dalla macchina, l'avevo praticamente messa qua in via delle vigne, in fondo a tutti, vicino al villaggio Sartini. Dai che mi tutta aperta, si andà che a Turra. Oh! Non c'è parcheggio, non c'è parcheggio, è un casotto, non lo so, e anch'io. Sono andato parecchie volte, boh, basta, non lo prendo a via. Come una cavalcata, secondo me, per carità. Una volta la vedo un paio di volte, boh, basta, stanca. Forse c'è qualcuno che vuole entrare, con buonasera, avanti bubù. Bubù, senti tu hai mari, bubù. Non hai niente in traffico. Bene, uia, c'ho mal di testa adesso, questo tempo di collo, finito alle 4:30 oggi di lavorare. Ho fatto la luce, ho mangiato una cosa leggera e mi sono riposato un'oretta, ma mi sono suicidato. C'è un venticello qua di campagna. Buona, la sera c'è il venticello la sera. Mi mangio un po' di bagosa. Stamattina erano le 5, sono uscito a casa e stava lampeggiando. Arrivo in zona e era drunente, ha fatto un paio di gocce e poi è calmato. Poi mi ha mandato un messaggio al mio figlio, cioè mio cognato, che è a Macomer, che lo lavora a Macomer. La Bacumino fa, no? O parola. Che stava deluviando, acqua a naso. E l'onfia era là, pure stamattina c'era vento. Mi vero Giomari. Cosa c'è, Grazia? Cosa c'è? Che stamattina c'era vento. Esatto, un po' d'arietta c'era là. Però stasera è calmato e c'era caldo, e ancora c'è caldo. Sto come, in pantaloncini, in maglietta, la tenda abbassata, sto bene. Ma oggi no, non è che l'ho sentito molto il caldo. Mari. Forse la giornalia, ma non l'ascolto la giornalia, sicuramente sto usando il portatile, magari dietro. Grazie, io non l'ascolto, avanti grazie. Ah, non lo senti. Gian Maria, Marino non ti sente. Beh. Nemmeno io lo sento perché sono all'altra parte con Nino, capito? Marino non ti sente neanche lui perché è col gommino dall'altra parte, capito miai? Poi la gente si pure a Luca, anzura. Ed è sparito. Luca, ci sì. Ma chi Luca però? E il mago della pittura. Un attimo. Ah, è bello. Eia. grazie. Ha preparato il fuoco adesso. E allora, vabbè, prepara i nubragini. Cosa buona c'è, Luca? Un attimino, scusate, perché mi sto spostando per così, Ragosta di certo no, eh. Aspetta, Gio Marino, che è cazzicato da Marino. Marino ti ha soprasseduto. Gio Maria, non sei capito. Ma sei già entrato dopo, vai. Eia, ok. Marino entra dopo che c'è il telefono. Va bene, va bene. Ma, io che ve la lì. Allora, 4, 6 atturini, non ve ne è manco una. C'è una, ve ne è mai nata all'albero, giusta la lì. È nata all'albero, è bello, la piccolì. Se sei fuggita che ha visto l'ugane, ed è da stamane è nata all'albero. Le altre sono sparite. E la lì sì, boh. Chissà dove sono andata, va. Ma sicuramente diventa un motore delle macchine. Le macchine hanno buttato in moto, se ne sono andate e ce l'hanno buttate, senza avvisarsi ne manco. Ah, attento Luca, è bello. Non risponde, no. Ci mettevi via se si trova nei prezzi di motore delle macchine. Infatti una, l'auto una signora, si è scartata, la pigliata che l'ha fatta a casa sua, ma è buttata. Come sta tutto il mezzo la piscinata, se si è passata la giga di distribuzione, la piscicata. Oh, vabbè. E sono andata a finire in mare tutti, a chi non ve ne manco una. Boh, ed erano belline, curiose. Assai giosurate. Un attimino, grazie. Eccoci qua. Ehi. Ma Marina ancora c'è? No, al telefono. Ah, bene, bene. Ho detto, grazie a oggi non sei uscito? No, oggi no, Paoletta è andata alla messa. Mi ne farà dalla corraccia dall'albero, minori, e non vola. Se la iatta la dimmi, fugge nella iatta. E' un grifugia. Se è minore, non avrà fatto a vola. È minore, ne farà dall'unito. E sopra l'albero mi sono incurrati andando in torrenni. Ma non riesce a pigliare il volo, è minore. Beh, che mi sono sì. E ogni tanto a chi corraccia, mi fa la dall'unico e tra i bucci. E rivedivo, no, che perché mi abbassa come un altro sacco mi ha fatto sì. Sono male, viso scusi, mi posso se la iatta, se la gatta è saiatta marroncina gli ha rifatto la vita, chissà l'ha ammazza, l'ha morto una manna la savuccia, ma non vera va. E al mare vede la una per sopra la coppa io mi sono i frigoriferi di fettole, no? E passato uno tanto ce l'era trombetti, non era manco era passetti di tipo ce l'era il culto e avanti, non so se l'ha toccato oppure no. Catta difendendo la mamma, la figliola, capito? E chi ci soffende Roma stesso? Mi aveva si avvicinato a chi si era infatti non li tocco più, cazzo me che terra, la fissi, sono, cazzo, ho già, buco va a farsi il capo, cazzo, a carizzare, non bisogna toccarli, però i nomi mi sono mediati, e li dentari e se la mangiano, Ma io sta facendo Filippo, a mia mai, io sempre da sapermi la chiesa da mangiare gli atti. Se avvicinate chi da te lì, così la fate bene se la manda, e da torra, mia, vai, mi. E deve essere anche un noce a sapermi. Senso, magari fate male, cazzo, quando gli pigliare gli atti, però è cosa mi fa, cioè, e una la buccia di tutti, tra di tutta 35 giri che andrà a me, a chi non riesce a burà, la mamma farà, ma una via, e gli lasciamo a mangiare. Vedi, no, si sa pure che ce l'ha fatto e non la giudice a Dio, ma non so, si l'ha ripigliato i ragazzi o si l'ha fatta pure e si è andata, boh. Sto capendo, si viene in salita, sta marroggia la ganza. No, poi viene una a manci, però chi si è fuggita, se la quadra da lì dal muretto, non è tocca. Anche gli dà da mangiare questa signora. Tu quella cosa. Grazie. Poi si rappi rubare il duccio, la corraccia fara, rubiglia, si buccia a treccia in sabatetta, chi fa piena tepa, che ribollini. E ogni tanto altri piccoli c'è già la mezza leva. A chi? Cade il ciocci roba si chiede, capito? A molti cazzo se lo mangia, ti credi che manca? Fine brutta fa questa, mia vai vicino al muretto. Sì, ci viene poco vita marrone, lo vedi? La tassa te la le rugguto e la mangia la sida. Vabbè dai, mi assento, grazie. Devo fare cose, rientro dopo. Senti, sì, ti attichiamo. Già acceso, ce l'ho qua, mi interrasso. Beh, grazie. Grazie. Aspetta. Grazie, no. Genua. Sì. Tu. Genua. Sì, dimmi. A te sono nella raccolta della mondetta, adesso guardando come cazzo hanno fatto la mondetta. Anche Ubinna ci vedi. Cosa? Hai capito? Graziano! Dimmi! Ehi, ti ha chiamato a sola, poi parentesi! No, ero bello di sciolina! Ah, andava a me ne sono prendi la roba dal di dojo! Vabbè, fai, ci sentiamo domani allora, va! Ci sentiamo, saluto in casa, grazie, ci sentiamo, chiudo anch'io, vai! Ehi, ciao, a domani, ciao! Ciao!